Fossano. Fossano, mano armata. Sono il primogenito. È un linguaggio di violenza, di esaltazione della droga e della violenza. Box. Postumi di una stronza mixtape. Postumi di una stronza. Sono il primogenito. Postumi di una stronza mixtape. Postumi di una stronza mixtape. Box. Postumi di una stronza mixtape. Postumi di una stronza. Sono il primogenito. Postumi di una stronza mixtape. Postumi di una stronza mixtape. Non voglio un'altra Betty Boop come su certi book. Ai miei concerti fuori i tuoi ragazzetti del club smetti su. Non reggi più i miei pezzi, tu vuoi i mezzi dei miei loop. Io voglio maggioranza, i seggi, vota boombox, banda. Sotto accusa come Amanda, Nox manda. Fanculo come il tanga, mo si muove l'anca, mo si sbanca. So di con me, c'ha un'arma in mano come un boss della Bianca. Wow, provincia grande, fuori dagli standard. La strada qua in programma, sui miei pezzi come a Sara Banda. Solo Sara canta, sexy manga quando è solo in stanza. Quando non c'è mamma, quando ogni minuto vive un dramma. Io voglio il mio barman, lui lo sa cosa mi calma. E non cerca di allungare col ghiaccio la mia testa calda. Sogni fa strage come in Terra Santa. Faccio musica sopra le righe di un pentagramma. Postumi di una stronza mixtape. Postumi di una stronza. Sono il primogenito. Postumi di una stronza mixtape. Postumi di una stronza mixtape. Postumi di una stronza mixtape. Postumi di una stronza. Sono il primogenito. Postumi di una stronza mixtape. Postumi di una stronza mixtape.